Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, purtroppo l'ultima questa. No, peccato. Sì, qui in studio Stefano, Eleonora, Valentina. In questa ultima puntata, che ha sempre come tema comune l'origine delle associazioni criminali che agiscono sia al sud, cioè che hanno origine al sud ma che agiscono anche qui al nord, qui da noi, e parleremo della camorra, però lo faremo in un modo molto speciale. Avremo un ospite d'eccezione. Di eccezionissima! Infatti per questa puntata abbiamo una fantastica intervista, niente poco di meno che a Isaia Sale. Wow, adesso ve la facciamo ascoltare, dai! Buon ascolto! Abbiamo qui il piacere di avere il professor Isaia Sales, che ha scritto la voce del dizionario enciclopedico sulle mafie e sulla camorra. Salve professore. Buonasera. Buonasera. E come prima domanda vogliamo fare: da che cosa deriva il termine camorra? Il termine camorra è una questione molto complessa tra gli studiosi della materia, può derivare da diverse... insomma, ha più possibilità di interpretazione. Quella che io condivido è quella di capo della morra, camorra, cioè morra è un gioco che fanno in genere adesso i bambini, non so se si usa ancora, ma all'epoca era un gioco d'azzardo e consiste nel allungare le dita di una mano e indovinare che numero viene. E poiché era un gioco d'azzardo dove la gente scommetteva, c'era qualcuno che controllava il gioco e impediva che ci fossero litigi o risse, e prendeva una quota sulla giocata, quindi capo della morra, oppure capo di una moltitudine molto rumorosa, perché morra appunto è questo in italiano. Altri invece lo fanno derivare proprio da un gioco d'azzardo, perché nel 1735 ci fu una prammatica, che era una legge dell'epoca, che autorizzava delle case da gioco a Napoli. Solo 8 furono autorizzate con quella prammatica del 1735, e una di queste era Camorra Avanti Palazzo, era una casa da gioco che stava davanti al Maschio Angioino, quindi può anche essere casa da gioco, oppure può derivare da una veste. Nel Medioevo c'era una veste che si chiamava camorra, era una veste femminile, e poiché i camorristi amavano abbellirsi in maniera vistosa, farsi vedere in maniera vistosa con abiti eleganti, può derivare anche da una veste con cui alcuni briganti, che si chiamavano gamurri, si vestivano. Quindi può derivare da un modo di vestire, da un gioco d'azzardo o da una casa da gioco. Grazie mille. E la seconda domanda è: dal punto di vista temporale, quando si possono collocare le origini della camorra? Guardi, le origini della camorra sicuramente si possono collocare all'inizio dell'Ottocento, ma credo che anche l'origine della mafia, dell'andrangheta, siano da collocare all'inizio dell'Ottocento. Per la camorra abbiamo dei documenti già prima dell'Unità d'Italia, addirittura abbiamo uno statuto scritto del 1842, quindi c'è una testimonianza scritta, questo statuto si chiamava Frieno. Quindi possiamo dire sicuramente che la camorra ha una maggiore antichità rispetto a mafia e 'ndrangheta, ma è da pensare che tutte e tre si siano formate all'inizio dell'Ottocento, quando è finito il feudalesimo. Il feudalesimo nel Regno delle Due Sicilie finì in Sicilia nel 1812 e a Napoli sul continente nel 1806. Dunque sicuramente sono delle attività criminali che si organizzarono in setta all'inizio dell'Ottocento e presero come modello, la camorra sicuramente, la massoneria, perché il rituale di iniziazione, lo statuto, fa riferimento a parole che sembrano copiate integralmente dalla massoneria e funzionavano come delle società di mutuo soccorso. Erano delle persone delinquenti che prendevano a modello il modo di organizzarsi dei nobili e degli aristocratici. E la camorra inizialmente criminalità urbana, come c'era a Parigi e come c'era a Londra, come ce ne parla Victor Hugo per Parigi o come Dickens per Londra. La differenza è che quelle erano bande urbane, erano sicuramente dei delinquenti che stavano insieme in bande, la differenza con la camorra è che loro si costituiscono come setta segreta e cercano di imitare il modello dei nobili. Per un lungo periodo i nobili facevano anche giustizia nei loro territori, soprattutto i feudatari, e quando finisce il feudalesimo la violenza come potere si sposta dalle classi alte verso le classi basse e la camorra ne approfitta e copia, ripeto, il modello dei nobili. The winter's bitterness is lost. It's the fireside warmth that comforts me, the peace for all my thoughts. The night brings shadows to the street. It's the time for dreams of things to come, to creep inside their lives. You're concealing every feeling. Can you find me deep inside you? Let me touch you, let me keep you, let me know you're there. You're concealing every feeling. Can you find me now? It's deep inside your heart. Every day I need to know I'm there, I'm there, I'm there. The evening fantasy begins in the sandy lanes that cross the fields. The gentle rain will fall. The morning sweeps away the night, and the dreams of you still haunt my thoughts, bring meaning to my life. You're concealing every feeling. Can you find me deep inside you? Let me touch you, let me keep you, let me know you're there. You're concealing every feeling. Can you find me now? Deep you. It's deep inside your part of you. Every day I need to know I'm there. Eccoci tornati in studio. Dal punto di vista giuridico, invece, quali sono i primi documenti che ci testimoniano la presenza della camorra sul territorio campano? Ma i documenti sono diversi. Innanzitutto, io li considero tali, anche la letteratura. C'è uno scrittore poco conosciuto, un verista napoletano, si chiama Francesco Mastriani, che usa il termine camorra e ci parla di camorristi in tutte le sue opere, tra cui Il ventre di Napoli, I misteri di Napoli, I vermi. In diverse opere lui, già prima del 1860, ci parla di camorristi. Ripeto, abbiamo uno statuto della camorra ritrovato negli archivi, che è del 1842, e abbiamo già delle drammatiche in cui se ne parla. Ripeto, una è del 1735 e la descrive come una casa da gioco, ma ce n'è anche una drammatica del 1798 in cui si vieta ai soldati che sono a Napoli di fare dei giochi proibiti, e tra cui parla anche di non fare camorra, e quindi il termine giuridicamente si impone già prima dell'Unità d'Italia, in documenti ufficiali dei governi dell'epoca e anche in letteratura. Noi nelle puntate precedenti abbiamo parlato delle origini della mafia siciliana e dell''ndrangheta, quindi volevamo chiederle, visto che abbiamo visto che strutturalmente vi sono comunque differenze attualmente tra le varie mafie che si trovano in Italia, se questa differenza possa essere riscontrabile anche nelle origini, già dalle origini di queste mafie. Guardi, in genere tra gli studiosi c'è l'idea di una fortissima differenza tra le tre organizzazioni. Se le guardiamo oggi, la differenza sicuramente c'è, ma io credo che i punti in contatto, i punti in comune, siano assolutamente superiori ai punti di differenza tra le tre organizzazioni. Anzi, si deve dire che è la Camorra che dà l'impronta alle altre due, perché all'inizio, in tutto l'Ottocento, anzi prima dell'Unità d'Italia, il termine Camorra era già affermato, era già conosciuto, mentre non esisteva ancora né il termine mafia né il termine 'ndrangheta. Il termine 'ndrangheta è un termine che avremo nel Novecento, mentre prima la mafia calabrese si chiamava Onorata Società, si chiamava Fibbia, si chiamava la famiglia Montalbano, si chiamava Picciotteria, ma in documenti della polizia viene chiamata anche Camorra. Anzi, alcuni esponenti della magistratura e della polizia chiamano la mafia siciliana la Camorra palermitana e la mafia calabrese la Camorra calabrese. Quindi all'inizio il modello, lo statuto, le modalità, i riti sono copiati dalla Camorra, che ripeto, che a sua volta li copia dalla massoneria e dalla carboneria. Quindi inizialmente tutte e tre le organizzazioni cercano di approfittare della fine del feudalesimo e di spostare la violenza che dà potere verso gli strati più popolari. Successivamente la Camorra perde questa modalità organizzativa, mentre si mantiene molto forte sia nella mafia siciliana sia nella mafia calabrese. Naturalmente la differenza fondamentale, ma questa è una differenza che viene nel Novecento, è la struttura piramidale della mafia siciliana, mentre sia quella calabrese sia quella napoletana ha una struttura più orizzontale. Quindi le differenze vengono dal contesto in cui le tre organizzazioni operano, ma all'inizio esse si muovono con le stesse modalità, con gli stessi riti, con la stessa organizzazione. E perché questo? Perché la Camorra nasce nelle carceri. I napoletani nelle carceri erano più numerosi, proprio perché Napoli era una grandissima città, era una delle tre grandi città d'Europa, e quindi il numero di delinquenti che finivano in carcere era un numero maggiore. Ma nelle carceri all'epoca finivano anche i liberali, quelli che si opponevano ai regimi assolutistici, e quindi è molto probabile che le tre organizzazioni siano nate nelle carceri e che nelle carceri hanno incontrato questi aderenti alla massoneria e alla carboneria e ne hanno copiato il modello. C'è una leggenda sulle tre organizzazioni, la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, cioè di tre cavalieri spagnoli che si rifugiano nell'isola di Favignana, e da lì danno origine alle tre organizzazioni. Certo, è una leggenda e le leggende non spiegano completamente la storia, però il fatto che i tre cavalieri si rifugiano nell'isola di Favignana è sintomatico, perché l'isola di Favignana era un carcere, era un luogo dove venivano confinati i delinquenti del regno, e quindi ciò dà conferma del fatto che essa è nata nelle carceri. Prima la Camorra e poi le altre due hanno copiato il modello della Camorra. E se è possibile le farei anche un'ultima domanda, ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda l''ndrangheta, e volevo chiederle se anche per quanto riguarda la Camorra si possano fare collegamenti col brigantaggio, oppure siano due fenomeni che non possano essere messi a confronto. Per la Camorra assolutamente no, nel senso che nelle zone dove ci fu brigantaggio non c'è Camorra, nelle zone dove non c'è stato il brigantaggio si è formata la Camorra. In Campania le zone interessate al brigantaggio sono la provincia di Avellino, la provincia di Benevento e la provincia di Salerno per quanto riguarda il Cilento, la parte che confina con la Basilicata. In queste tre realtà non c'è storicamente una fortissima presenza di Camorra, anzi nel Cilento è quasi sconosciuta, sono solo apporti esterni, diciamo così, non è una camorra locale. Quindi in Campania è del tutto evidente che tra brigantaggio e camorra non ci sia nessun collegamento. Credo che anche per la Calabria sia la stessa cosa, perché le aree interessate al brigantaggio non hanno dato origine all'Ndrangheta. Cosa diversa invece in Sicilia. Nel latifondo siciliano è nato sia il brigantaggio, sia il banditismo, sia la mafia. Per un periodo forse i mafiosi erano delinquenti che si organizzavano anche in bande, successivamente hanno cercato di differenziarsi dai briganti, perché la caratteristica della mafia, come della camorra e come dell'Ndrangheta, è di essere un'elite delinquenziale, un'elite criminale che non vuole essere confusa con la criminalità comune e con la delinquenza comune. E quindi, mentre i briganti e i banditi si debbono nascondere, stanno fuori dalla legge, fuori dalla città, i mafiosi vivono in mezzo a noi tranquillamente, non hanno bisogno di nascondersi, lo fanno solo quando sono perseguiti dalla legge. Grazie mille, professore, noi la ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità. Grazie a voi. Eccolo qui, l'ultimo nostro jingle di questa tornata. Sempre più belli. Sempre più belli, e ci specializzeremo sempre di più a farli. Adesso abbiamo pensato che forse, dato che adesso tutti avremo un po' di più di tempo con queste vacanze natalizie, oltre che a studiare, avremo anche un po' di tempo per dedicarlo a noi stessi, e qual è il modo migliore se non leggere dei libri. Quindi volevamo lasciarvi qualche consiglio di lettura, visto che noi siamo persone molto acculturate e vi vogliamo far vedere... Acculturatissime. Esatto. E vi faremo vedere le nostre capacità intellettive attraverso i nostri consigli di libri da leggere. Un libro che vi vorrei consigliare è, che ho letto di recente, è Il ballo. Ah, quello della Nemirovsky? Sì, piccolino ma molto molto molto intenso. Tratta in una storia un po' particolare del rapporto madre-figlia, e quindi ve lo vorrei proprio consigliare. Io vorrei consigliarvi invece, anche se è un pochino tosto perché è un po' sulla filosofia dell'azione e su un modo di vedere le cose non solitamente convenzionali dal mondo tipicamente di sinistra. Praticamente il manuale del giovane samurai di Mishima. Mishima probabilmente è uno dei più grandi intellettuali della destra che sia mai esistito, e in realtà è interessante anche perché ti fa vedere delle cose della società occidentale in cui viviamo, te la fa vedere dal punto di vista di un giapponese che è fermamente convinto della propria identità culturale. È molto interessante secondo me, perché comunque sia ogni tanto bisogna vedere le cose anche da un altro punto di vista. E invece io vi consiglio Teorema di Pasolini, tanto per riequilibrare un po' gli equilibri politici della puntata. È una storia molto surreale che parla del rapporto fondamentalmente che Pasolini aveva col sacro e del brutto rapporto invece che aveva con la borghesia, perché dal libro viene fuori fondamentalmente che non c'è salvezza per il mondo borghese. Quindi ora direi che abbiamo ristabilito abbastanza gli equilibri destra-sinistra. E dopo aver ristabilito questi equilibri, volevamo fare, come prima di salutarvi, un regalo a una persona grazie alla quale è nata questa radio. Volevamo fare un regalo a Benedetta Bisaccioni, che è tornata a Bologna in questi giorni, e la salutiamo calorosamente e la lasciamo con Bologna di Francesco Guccini. Ciao! Ciao a tutti! Buon Natale! Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi minore, mercati all'aperto, bistrò della Rive Gauche l'odore, con Sartre che pontificava, Baudelaire fra Assenzio cantava, ed io, modenese volgare, a sudarmi un amore, fosse pure ancillare. Però che bohème confortevole, giocata fra case e osterie, quando ogni bicchiere rimbalzano le filosofie. Oh, quanto eravamo poetici, ma senza pudore e paura, e i vecchi imberiaghi sembravano la letteratura. Oh, quanto eravamo tutti artistici, ma senza pudore o vergogna, cullati fra i portici cosce di mamma Bologna. Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte, Bologna capace d'amore, capace di morte, che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola il giusto la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita. Bologna è una ricca signora che fu contadina, benessere, ville, gioielli e salami in vetrina, e sa che l'odor di miseria da mandare giù è cosa seria, e vuole sentirsi sicura con quello che ha addosso, perché sa la paura. Lo sprechi il tuo odor di benessere, però con lo strano binomio dei morti per sogni davanti al tuo santo petronio. E i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono da ormai, si son persi, confusi e legati a migliaia di mondi diversi. Oh,